per noi era un punto di riferimento per tanti versi. Noi come compagnia non lo abbiamo conosciuto bene, nel senso che lo abbiamo incrociato quando Stefano Tassinari, che è stato l'anima di tante iniziative che anni fa abbiamo fatto all'ITC Teatro, cioè la Parola Immaginata, ecco, lo abbiamo incrociato lì quando Stefano lo invitava a leggere per la rassegna della Parola Immaginata. Però è stato un punto di riferimento, ma intanto per la sua, non solo per le sue doti di attore, ma anche per la sua umiltà. Io ricordo che una volta lo chiamai anche per chiedergli se avesse avuto voglia di interpretare qualcosa. Ora ricordo veramente poco, ma ricordo che al telefono fu davvero molto cordiale, e questo succedeva molti anni fa, quando noi come compagnia non eravamo nemmeno affermati. E questo perché in realtà Mariscotti è sempre stato un attore, anche a livello teatrale, molto moderno, molto moderno anche nelle scelte che ha fatto. In particolare penso al suo sodalizio, diciamo così, con al fatto che ha interpretato i testi spesso di Raffaello Baldini, che è questo straordinario autore romagnolo, di cui Mariscotti è stato un interprete assolutamente impareggiabile. Cioè, quindi scelte comunque che lo hanno riportato alla sua terra d'origine, che è la Romagna, che però è una regione tra le più vive, diciamo, quella zona della nostra regione che è tra le più vive teatralmente parlando, e lui è davvero riuscito a incarnarla nel migliore dei modi, pur arrivando nella sua attività cinematografica a lavorare con alcuni dei maggiori registi a livello mondiale. Quindi questa cosa, questa strana tensione tra la Romagna e il mondo, direi che è una delle cose, delle cifre più caratteristiche del suo lavoro. Teatralmente lo ha connotato davvero in maniera straordinaria, insomma. Il grande pubblico conosce Mariscotti per quelle che sono state le sue interpretazioni cinematografiche o televisive. Ecco, però teatralmente era un grande attore, anche perché, anche questo mi piace ricordarlo, Mariscotti è approdato tardi rispetto a molti al mestiere dell'attore, ma proprio tardi, cioè ha scoperto tardi questa vocazione ed è approdato tardi ai grandi palcoscenici e anche ai grandi risultati, ai grandi esiti che poi ha avuto. A 30 anni ha cominciato a scoprire questa sua vocazione attoriale, cioè è una cosa abbastanza anche peculiare, particolare, spiazzante per certi versi, insomma. Ma questo per dire che intanto era un attore straordinario, anche una maschera straordinaria, cioè nel senso che questo suo viso un po' rude da romagnolo, insomma, aspro, poi credo che appunto lo abbia molto anche aiutato anche questa voce, che è una voce appunto un po' aspra, insomma un po' ruvida, lo abbia anche molto aiutato nel connotarsi come attore. Quindi anche nella possibilità di giocarsi questa versatilità di cui parlavamo, ma sempre riconducendola a una cifra sua molto precisa e molto particolare.